Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unico viaggio, pronti per l'atterraggio. Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unica chance, solo questo pedaggio. Qua non importa ciò che hai, ma la strada che percorri. Qua non importa ciò che hai, ma soltanto dove corri. Non mi dimentico che siamo di passaggio, a che ha senso unico il percorso di sto viaggio. L'oro che accumuli ti fa stare nell'agio, ma nell'aldilà non ci potrai comprare il seggio. È noto gente che già vive nel disagio, ricca nello spirito ma povera di casa, come la gente che abbandona il suo paesaggio e dopo quel naufragio approda a Lampedusa. E chi abusa del potere temporale vuole solamente avere più potere ad ogni costo, con mazzette corrompe il suo tribunale, pensa di comprarsi in paradiso con i soldi un posto, o di corrompere magari la morte con le banconote che già tieni in cassaforte. Ma non potrà comprarsi pure la sorte, pagherà domani tutte le sue false carte e male fatte, fatte per contanti, guerre per diamanti, per liquidi inquinanti, da comandanti come Gheddafi che fanno scappare popoli con i motoscafi. Qua non importa ciò che hai, ma la strada che percorri. Qua non importa ciò che hai, ma soltanto dove corri. Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unico viaggio, pronti per l'atterraggio. Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unica chance, solo questo pedaggio. Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unico viaggio, pronti per l'atterraggio. Siamo di passaggio, tutti di passaggio, unica chance, solo questo pedaggio. Vedi che il male è cavarizia, vedi che vive con l'ingiustizia, vedi che tutto ciò che conta non è solo una notizia. Quello che serve è solo l'amore, il tuo bagaglio personale, tutto il resto lo puoi lasciare, da rispetto a ciò che vale. E se viviamo soltanto per una volta, allora meglio vivere per bene. E se viviamo soltanto per una svolta, allora meglio fare strada insieme. E tutti i soldi che tu hai non serviranno, perché la sorte già l'ha scritta già, e le catene nelle fiamme bruceranno. Ciò che hai fatto qua non sfugge nell'aldilà, tutti di passaggio, tutti uguali in questo mondo. A che se è vero chi c'ha troppo e chi non c'ha neanche un salario, chi comanda qui fa toccare il fondo, sono solo dei cornuti come Veronica Lario. Che percorre.